La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori Radio 24, e grazie per chi ascolta la versione di Oscar in diretta o in podcast. Sono le 16:31 primi da Milano, gli studi di Milano della Radio. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto. Vi dico subito l'argomento della puntata, a cui arriveremo dopo due minuti, perché riepilogo alcuni fatti economici della giornata prima, rinviandovi poi naturalmente a Focus Economia con Sebastiano Barisoni. Però intanto parleremo del canone Rai, perché visto che sono arrivate le bollette, si pagano le bollette di luglio, lo sapete, è la prima tranche con le 70 euro del canone in bolletta elettrica. Siamo particolarmente curiosi di sapere da qualcuno di voi se ritiene di avere nella bolletta elettrica pagato un canone che non è giusto addebitargli, abbia fatto o non abbia fatto, meglio se l'ha fatta ovviamente, l'autocertificazione prevista nelle forme previste per dire: no, scusate, io dichiaro che non incorro nel requisito previsto per addebitarmi sul canone elettrico, che ricordo a tutti era quello di essere contemporaneamente la stessa persona fisica il titolare di un contratto elettrico e della detenzione di apparati di ricezione, come stabiliti dal decreto legge degli anni 30, che sono quelli in base al quale si paga sulla tassa di possesso gli apparati di ricezione, si paga quella che era una vecchia tariffa, cioè il canone dovuto alla RAI. Dopo il referendum diventa tassa di possesso e adesso la si riannega in un'altra tariffa, quella elettrica. Ecco, se ritenete nella bolletta elettrica di essere stati vittima di errori, perché voi non dovete, per le mille ragioni diverse che abbiamo più volte spiegato, essere tra i pagatori attraverso chi gestisce il servizio elettrico del canone, iniziate a dircelo. Molti ascoltatori ci hanno segnalato in questi ultimi 4-5 giorni evenienze di questo tipo, alcuni perché non se lo aspettavano minimamente, altri anche che hanno fatto l'autocertificazione. Allora l'ospite che abbiamo serve appunto a risolvere alcuni dei vostri problemi. Se telefonate all'800 24 00 24, perché è appunto il capo di un ufficio studi dell'Unione Nazionale Consumatori, che si occupa già da prima di questa faccenda, segnalando, come vedremo, che l'ipotesi di errori materiali in realtà è molto ampio, stante la ristrettezza dei tempi in cui c'è stato, dobbiamo immaginare, il travaso del database dall'azienda, la RAI di Torino, che gestiva il database del canone, ai gestori elettrici, e per incrociare poi i dati con le utenze, le utenze plurime nell'ambito della famiglia, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, parliamo di questo. Nel frattempo lasciate che vi dica solo alcune cose su alcuni segnali non troppo buoni dal punto di vista macro, perché ce n'è uno dagli Stati Uniti. Se avete sentito la rubrica delle borse prima, avrete capito che intanto il primo dato, la prima stima del secondo trimestre del PIL americano risulta molto deludente, cioè non col metro italiano ed europeo, perché stiamo parlando di un aumento dell'1,2% annuale, o quantomeno per l'Italia sognarcelo, ma il problema è che era attesa un dato fino a due volte superiore. Le scorte diminuiscono, i consumi aumentano, quindi questo è positivo, però le scorte diminuiscono, e se diminuiscono le scorte vuol dire che la fiducia delle imprese e che gli ordinativi intanto per il futuro diminuiscono e non aumentano. Questo primo dato. Quello dell'Eurozona invece è sicuramente più deludente ancora, perché nel secondo trimestre il PIL dell'Eurozona cresce solo del più 0,3%, quindi dell'1,6% su base annua, e anche qui se pensiamo che nel primo trimestre la crescita dell'Eurozona era dello 0,6%, capite che siamo in presenza di una frenata vera, e tenete conto che questa non ingloba ancora gli effetti di Brexit. E ovviamente questo significa per noi crescere ancora meno della media dei paesi dell'Eurozona, e quindi avere un dato del PIL atteso di quest'anno che inizia a essere con certezza inferiore all'1%, e vedremo se sarà più 0,8, più 0,7 o più 0,6. Più 0,8 sarebbe uguale a quello dell'anno scorso. Se si scende sotto vuol dire che altro che l'Italia che riparte, e lo dico con dolore ovviamente, non lo dico perché sono contento, ci mancherebbe altro. a crescere di più è ancora la Spagna. Spagna senza governo in realtà nel secondo trimestre cresce dello 0,7% rispetto allo 0,3% dell'euroarea, e frenicchia un po' anche lei rispetto al primo trimestre che era più 0,8%, però insomma avercelo, per così dire. Nel frattempo le trattative in Spagna sono ancora incagliate, chissà se vanno alla terza elezione successiva, però intanto la Spagna va avanti bene. Dopodiché, ultimo dato, quello sull'occupazione, l'occupazione di giugno, qui stiamo parlando dell'Italia, ed è un dato secondo me positivo, ne parleremo meglio domani dalle 10 alle 12 ai conti della Belva, come sempre, come ogni sabato, però a giugno è vero, il tasso di disoccupazione sale un po' all'11,6%, ma perché sono in calo gli inattivi, quindi si registra un aumento di coloro che credono nella possibilità di trovare un posto di lavoro. Questo è comunque positivo e soprattutto diminuisce di botto il calo che era invece molto forte all'inizio dell'anno, perché sono venuti meno, come sapete, gli incentivi all'assunzione, che sono scesi per il tempo determinato da 8.000 euro rotti a ogni contratto a tempo determinato a 3.500 rotti. E per la prima volta invece c'è una ripresa positiva a giugno, anche però osservando che i nuovi occupati di giugno, 71.000, sono in realtà soprattutto lavoratori indipendenti, e anche questa è una cosa positiva, perché i lavoratori indipendenti erano in calo da un anno e mezzo, nella felicità di tutti che dicono stiamo ripulendo le finte partite IVA, e nel dolore di un autonomo come me, e invece si vede anche questo un timido segno di ripresa dei lavoratori indipendenti, sono anzi praticamente il totale dei nuovi occupati di giugno, di 71.000, e questo significa che anche lì c'è qualche segno che valga la pena restare in piedi una volta che uno si espone ai rischi del lavoro autonomo. Vedremo meglio tutti questi dati domani dai conti della Belva dalle 10 alle 12, ma adesso andiamo all'argomento della giornata, e cioè gli errori in bolletta elettrica del canone RAI. Diamo per scontato di ricordarci tutto cosa è avvenuto nei giorni alle nostre spalle sui mega stipendi oltre i 200.000 euro, 94 tra dirigenti della società e alti gradi giornalistici, oltre 200.000 euro, 16.000 in 16 a guadagnare più di Obama, in 60 a guadagnare più della Merkel, ma detto tutto questo vediamo se vi fate vivi nel dire c'è un errore. Noi abbiamo alcune testimonianze di ascoltatori, ma io voglio presentarvi il nostro ospite, che è appunto Mauro Antonelli dell'Ufficio Studi dell'Unione Nazionale Consumatori, che ringrazio di essere qui ai microfoni oggi pomeriggio su questo tema. Buon pomeriggio. Grazie a voi. Allora, lei già mesi fa scriveva ma il tempo è molto ristretto per immaginare che 29 milioni e rotti di utenze elettriche identifichino con precisione i 24 più o meno milioni di detentori teorici degli apparati di ricezione. È così? Ebbene sì, lo ammetto. Il vero problema è che l'hanno detto anche le imprese elettriche, già. Quindi che sarebbe stato un problema. In particolar modo dico una cosa tecnica sulla tariffa D3, che è una tariffa che pagano sia le persone residenti che hanno un contatore superiore a 3 kW, sia i non residenti. Quindi i non residenti devono pagare la tariffa D3, ma il problema è che la tariffa D3 le imprese elettriche non sono in grado di distinguere. Già. Se è una tariffa appunto residenziale o meno, sono in grado di farlo solo a partire dal 1 gennaio 2016. Quindi a questo punto l'Agenzia delle Entrate ha fatto una verifica, diciamo così, rispetto a quello che risulta all'anagrafica del comune, però noi abbiamo tantissime segnalazioni di persone che avevano telefonato a centralini RAI dicendo io ho un'utenza elettrica che risulta non residenziale, devo fare la dichiarazione, risposta no, e che adesso invece hanno ricevuto i famosi 70 euro, e quindi questo è un primo problema. Ricordo che su questa questione del canone RAI sono state fatte numerose violazioni dello statuto del contribuente, che è una cosa che non viene rispettata in Italia mai. Bisognerebbe dare 60 giorni a un contribuente per adempiere, diciamo così, una volta entrati in vigore tutti i provvedimenti di attuazione. Ora, al di là del fatto che la definizione di TV, che era un presupposto diciamo abbastanza importante, visto che una delle dichiarazioni era non ho la TV, quindi non devo pagare, se no che il Consiglio di Stato aveva sollevato il problema che non era chiaro, esatto, che cos'era una televisione. Ecco, questa cosa è entrata in vigore il 20 aprile, quindi dando appena 26 giorni alla prima dichiarazione dichiarazione che andava fatta entro il 16 maggio. È noto che lo Stato considera lo Stato del contribuente una fonte, è una legge ordinaria, non costituzionale, l'abbiamo detto un miliardo di volte, detto questo se ne frega, con parole povere. Esatto, addirittura il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, che secondo la legge di stabilità doveva entrare in vigore 45 giorni dopo l'entrata in vigore di questa legge di stabilità, che è quella famosa che ha stabilito il canone in bolletta, il che vuol dire, siccome la legge di stabilità è entrata in vigore il 1 gennaio, 45 giorni dopo, è addirittura entrata in vigore solamente il 5 giugno, quindi addirittura successivamente alla data di scadenza della dichiarazione. Esatto. E in questo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico era scritto, ad esempio, quindi una cosa che aveva importanza per l'adempimento, che gli utenti dovevano utilizzare esclusivamente il modellino adottato e approvato dall'Agenzia delle Entrate il 24 marzo. Noi ad esempio abbiamo tanti casi di persone che hanno fatto la dichiarazione non ho la TV a gennaio e a febbraio e che ora si sono ritrovati il canone. Noi abbiamo persone decedute che dovranno pagare il canone. Cioè ci troviamo di fronte a una situazione assolutamente vergognosa, per cui persone che sono morte ad esempio a ottobre e novembre, gli eredi hanno fatto quello che era all'epoca consentito, cioè la famosa disdetta, e che quindi credevano di essere a posto, ma siccome al 1 gennaio è scattata la famosa presunzione un'utenza elettrica uguale un televisore, a quel punto si sono ritrovati il canone in bolletta, e addirittura alcune persone l'hanno fatto a gennaio. Cioè, siccome a gennaio non sta scritto da nessuna parte che la vecchia disdetta non vale più, uno credeva, avendola inviata a gennaio, perché magari il genitore è morto a gennaio, che poteva essere a posto inviando, diciamo così, il fatto, il certificato di morte, inviando il fatto che appunto il televisore non c'era più, e credevano di essere a posto, e invece adesso si sono ritrovati il canone. Queste sono situazioni che secondo noi vanno assolutamente sanate, perché si tratta di persone assolutamente in buona fede, che ricordo non hanno la TV, cioè voglio dire, il presupposto alla fine del pagamento di un imposto di questo tipo è che tu alla fine il televisore ce lo devi avere, ma se io non ce l'ho e te l'ho anche attestato, voglio dire, mi sembra veramente assurdo che uno debba dichiarare. Allora, senta, io le faccio intanto una prima domanda di ordine generale che desumo dalla richiesta che è venuta da molti ascoltatori nelle lettere che abbiamo ricevuto, e poi partiamo con le telefonate a cui chiedo, ne sentiamo un paio alla volta e di volta in volta le chiedo di rispondere. La domanda che le faccio io è questa, perché molti ascoltatori sono andati a notare, una volta riscontrando di avere la debito in bolletta che a loro giudizio non si aspettavano, hanno fatto accertamenti e hanno visto che l'Agenzia delle Entrate, in effetti è proprio così, ha chiarito sui social, su tutte le sue fonti e le pagine sui social, che, leggo, se si ritiene che l'addebito del canone nella fattura elettrica non sia corretto, è possibile il pagamento della sola quota energia. Il pagamento parziale della fattura va effettuato secondo le modalità definite da ciascuna impresa elettrica per i pagamenti parziali, indicando nella causale di versamento l'imputazione del pagamento, in questo caso quindi quota energia elettrica. In mancanza di tale indicazione, sto sempre leggendo testualmente quello che dice Agentrate, la somma versata è comunque attribuita prioritariamente alla fornitura elettrica. Naturalmente, letto questo, molti ascoltatori dicono: ah vabbè, allora io pago solo quello. Ma a me sembra il caso di doverosamente informarli, mi corregga se sbaglio, che in realtà il presupposto di questa nota dell'Agenzia delle Entrate vale solo se si è fatta l'autodichiarazione, altrimenti bisogna pagare in ogni caso, è vero o no? Temo che sia così, anzi di più, il presupposto è che tu abbia ragione. Eh già. Che è ancora peggio, nel senso che quello che è riportato dall'Agenzia delle Entrate è quello che ha fatto il famoso Ministero dello Sviluppo Economico con quel famoso decreto che doveva arrivare 45 giorni dopo rispetto al 1 gennaio. E quindi l'Agenzia delle Entrate si limita a riportare questa cosa qui, e cioè che addirittura una cosa era già stabilita nelle leggi di stabilità, che se tu vuoi sospendere il pagamento della bolletta, per esempio perché hai la domiciliazione, lo devi fare per l'intera bolletta, se non dai la specifica di dove devono andare a finire questi soldi, vanno prioritariamente per la fornitura di energia elettrica, e che comunque non avrai il distacco dalla luce. Questa cosa, diciamo, è comunque abbastanza chiara. Il punto è che non si capisce, se poi tu risulta che hai torto, cosa succede? vengono applicati degli interessi di mora, vengono applicate delle sanzioni, perché ad esempio il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dice che tu non sei colpevole, diciamo, per ritardo, quindi se il tardivo versamento non dipende da cause imputabili all'utente non si procede all'applicazione di sanzioni e interessi a suo carico. Ma quando sono cause imputabili? Allora, noi abbiamo persone che non hanno dichiarato niente e perché si aspettavano di pagare il canone come hanno fatto magari da 20 anni a questa parte. Allora, a luglio non gli è arrivato il canone, ci stanno domandando io cosa devo fare, perché se io non comunico niente all'Agenzia delle Entrate a luglio, è una causa imputabile o non imputabile? Se io non dichiaro niente fino ad ottobre, entro ottobre devo pagare col modello F24 in unica soluzione, che è la modalità che attualmente è prevista per quelli famosi che abitano sulle isole non collegate con la rete nazionale, oppure quelli che non hanno utenza elettrica, ad esempio le case multifamiliari dove c'è un solo contatore e più famiglie. Allora, in questo caso la famiglia che ha il contatore paga, gli altri devono pagare con modello F24 entro il 31 ottobre in unica soluzione, così come ad esempio gli inquilini, laddove ad esempio è previsto che il proprietario dell'immobile ha mantenuto ancora l'intestazione dell'utenza elettrica, in quel caso l'inquilino deve pagare, se ha ovviamente la TV, in unica soluzione. Ecco, allora, se io non ricevo niente, cosa devo fare materialmente? Tutte queste cose andrebbero chiarite. E la risposta a questa domanda noi formalmente non ce l'abbiamo, questo è il punto. Esatto. Io le faccio un altro esempio qui, devo dire la verità, siccome capitato a un'ascoltatrice, mi ha molto colpito, allora io ho chiesto al mio commercialista nel frattempo, cioè gli dice: noi abbiamo due canoni nella stessa famiglia anagrafica, non ce lo aspettavamo ma è così, loro non hanno fatto la dichiarazione, e a questo punto il mio commercialista dice: ma non è che noi abbiamo una norma precisa per questo, però per sì e per no io farei un atto di autotutela andando all'Agenzia dell'Entrata. Lei che ne dice in questo caso specifico, perché ha avuto due canoni nella stessa famiglia anagrafica? Allora, in questo caso, diciamo, c'è la soluzione, sempre se uno vuol pagare nel frattempo per chiedere il rimborso, nel senso che noi abbiamo due quadri che andavano compilati, il quadro A e il quadro B. Per quanto riguarda il quadro A, che io non ho la TV, purtroppo ormai i 100 euro sono andati, non c'è più niente da fare. Esatto. Perché l'Agenzia delle Entrate ti dice, io a voce ovviamente quando ti abbiamo telefonato, ci rispondo: ma io come faccio a sapere se tu a gennaio avevi o no la televisione? Non ho potuto controllare. Ora qui riapriamo la parentesi di prima, a quelli che hanno mandato la disdetta della persona morta. Comunque lì si paga. Quelli, diciamo, si paga. La doppia utenza invece no. Perché? Perché quella dichiarazione ha validità per tutto l'anno e quindi in qualunque momento la presenti vale per tutto l'anno. Quindi perché l'Agenzia delle Entrate ti dice: vabbè, è chiaro che tu devi pagare un solo canone per una sola famiglia. Ricordo che cos'è una famiglia, perché bisogna stare attenti, perché se la moglie ha la residenza nella seconda casa e il marito ha la residenza altrove, in realtà non sono nello stesso stato di famiglia, quindi pagano anche le seconde case. Comunque, diciamo così, se c'è un'unica famiglia e due utenze elettriche diversamente intestate, non c'è problema, dovete assolutamente affrettarvi a compilare il quadro B indicando il codice fiscale dell'utenza dove avete la residenza. Anche fuori scadenza va bene. Anche fuori scadenza. Facciamolo subito. Va bene, un secondo solo, abbiamo un minuto di informazione sulle strade e poi le telefonate e le altre risposte ai nostri ascoltatori. Strade. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, ci stiamo occupando di canone Rai, errori, cosa fare di fronte a imputazioni nella bolletta elettrica che a vostro giudizio non vi aspettavate o che comunque non coincidono con la coincidenza appunto della residenza anagrafica e detenzione di apparecchi di ricezione. Abbiate o non abbiate fatto l'autodichiarazione di tutela prevista nelle forme sulla cui rispettosità delle leggi abbiamo visto in realtà lo Stato se n'è fregato perché non vi ha dato i termini che erano previsti per poter davvero capirla, però insomma, è così. Allora, sentiamo un paio di telefonate, anzi restiamo tutte e tre, poi diamo loro risposta rapidamente perché è con noi Mauro Antonelli dell'Ufficio Studi dell'Unione Nazionale Consumatori. Cominciamo con Massimo da Frosinone, prego Massimo. Pronto? Eccoci Massimo, prego. Sì, dite. Buonasera a lei e complimenti innanzitutto a tutte le trasmissioni di Radio 24. Allora, senta, io ho un problema di quelli, diciamo, più o meno elencati, non direttamente a me, ma a mio suocero. Il mio suocero ha oltre 75 anni e di conseguenza non dovrebbe pagare il canone RAI. Sì. ha fatto, lui ad aprile, una raccomandata con ricevuta di ritorno all'ufficio delle entrate, adesso gli è arrivata la bolletta e naturalmente ci stanno i 70 euro di canone. Adesso io ho chiamato il gestore dell'energia elettrica, che naturalmente, come sempre le cose succedono in Italia, dopo un sembra ripetitivo, non sapevano niente. Allora io dico, adesso a prescindere che si risolverà, si pagherà e non si sa, ma è possibile che un gestore che prende la briga di prendersi i soldi del canone per dopo distribuire lo Stato, una parte del... non è organizzata nel dare risposte. Guardi Massimo, io sono sincero, i gestori c'entrano poco, perché hanno fatto miracoli, loro hanno tentato di spiegare in tutti i modi che i tempi erano tali da non poter fare loro controlli aggiuntivi, oltretutto rappresentano dei sostituti d'imposta per lo Stato, hanno anche trattato poi per una quota corrispettiva, questo all'inizio non era chiaro, però il problema sono i tempi rispetto a questi milioni di dati. Però qui il problema è arrivato a chi è oltre 75 anni e non dovrebbe che fare. Ok, prima telefonata. Seconda, Roberto da Milano. Prego Roberto. Buonasera dottor Giannino. Senti, io ho un problema diverso. Io non ho mai avuto il televisore. Ha fatto l'autocertificazione? L'autocertificazione, ho fatto anche l'autocertificazione e mi viene addebitato 51 euro per il periodo da gennaio a... Come 51 euro? 51 euro dall'abbonamento dal primo gennaio Ma ha chiesto al suo gestore? Ha chiesto al suo gestore elettrico? Ho chiesto all'elettrico, dice di telefonare alle imposte dirette, alle agenzie delle entrate. Ok, 51 allora euro. Ho telefonato, ma non sono riuscito a parlare con nessuno. Allora, secondo caso, 51 euro, non si capisce da dove diavolo saltano fuori, non ha l'apparecchio televisivo, ha fatto la certificazione. Carlo da Rimini, Carlo, prego. Buonasera, signor Giannino, grazie del contatto. Dunque, ho questo caso. Mia figlia è esente per motivi d'ISE. Dal canone. Sì. Siccome è titolare del contratto, diciamo, di fornitura di energia, anche la sua, le hanno comunque addebitato i 70 euro nonostante lei abbia fatto in tempo la domanda di esenzione. Siccome io che pago, sono il pagatore, io sono il padre, pago tutto io, perché lei non ha reddito purtroppo, poverina, anche per una figlia che è disabile, volevo chiedere se è possibile defalcare questi 70 euro dal mio canone, perché le procedure qui saranno complicatissime, io credo, perché adesso mi arriverà una sanzione da parte della RAI, dell'Agenzia delle Entrate. Signor Giannino, com'è possibile secondo lei? No, possibile è possibile. Sentiamo che cosa ci dice il nostro Antonelli. Ancora Luigi dalla provincia di Napoli, brevissimo Luigi, prego. Buongiorno. Buongiorno. Senta, volevo semplicemente sapere come comportarmi, visto che in pratica 3 mesi fa ho affittato un immobile e avendo io già un'utenza elettrica dove viviamo con la famiglia, e in pratica mi è arrivato il canone pure a questa nuova utenza elettrica dove io non ho nemmeno residenza. E quindi dovrebbe pagarlo l'affittuario mentre invece è arrivato a lei. Quindi quarto caso. Allora iniziamo a tentare di dare delle risposte da parte di Mauro Antonelli, prego. Allora ci proviamo. Allora intanto l'esenzione. Allora l'esenzione, è così prendo due casi insieme, è in realtà solo per chi ha un'età pari o superiori a 75 anni. Quindi il reddito è stato innalzato da 6.713 euro a 8.000, però l'operatività degli 8.000 euro non è ancora entrata in vigore, perché questa soglia non è ancora operativa, va finanziata solo a seguito della dimostrazione delle maggiori entrate rispetto al bilancio del 2016. Quindi il vero problema è che ci troviamo di fronte a un limbo per chi guadagna tra 6.713 e 8.000, che probabilmente avrà la restituzione successivamente, mentre chi sta sotto 6.713 non lo doveva pagare e quindi lì ovviamente dovrà chiedere la restituzione e fare la procedura, si spera, meglio chiarita da parte dell'Agenzia delle Entrate. Però ricordati, l'esenzione vale solo per chi ha più di 75 anni, che è una cosa assurda, no? Perché voglio dire, non è che se uno guadagna 6.700 euro e ha 4 figli da mantenere e diciamo è in migliori condizioni economiche rispetto a un single di 75 anni, che è una cosa a mio avviso anche incostituzionale. Sono d'accordo con l'articolo 53 della Costituzione, che nessuno in Italia conosce, perlomeno tra i politici. Il sistema tributario deve essere informato a criteri di progressività. Che è una cosa che può. Vabbè, questa era una. Poi, dunque, quali erano le altre? No, sono due, a dire la verità. Sì, in realtà sono due. Io penso che quella figlia purtroppo dei papagani. Esatto, non esatto, penso sia, esatto, sia esente, quindi questo è il mio problema. Perché c'è questa la doppia bolletta anche per la casa affittata invece che chi l'ha affittata. Allora, lì il problema è che se l'utenza era diversamente intestata, quindi ci troviamo di fronte a la casa mia di proprietà intestata al marito e l'utenza affittata intestata alla moglie, allora in questo caso bisogna fare la famosa dichiarazione. È l'esempio, diciamo così, per quanto riguarda l'esempio 4 dell'Agenzia delle Entrate, lo dico in termini tecnici, andate a vedere lì la dichiarazione, siete ancora in tempo a farla. E quindi poi a questo punto resta il famoso problema, siccome questa validità annuale, quindi comunque chi si trova un doppio pagamento di canone può far valere i suoi diritti, siccome l'Agenzia delle Entrate ha tempo fino al 4 febbraio, cioè dopo la scadenza delle bollette di luglio, per intenderci, altra cosa paradossale, per presentare questo famoso decreto sui rimborsi, che tra l'altro già la parola rimborsi a noi non piace, perché certo, non vorremmo che l'Agenzia delle Entrate chiarisse solo come reagire i soldi dopo che sono stati indebitamente prelevati e non anche per evitare il pagamento a titolo preventivo, e va bene. Comunque uno può presentare queste dichiarazioni e poi quando verrà emesso questo famoso provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate chiedere indietro la restituzione dei di soldi. Di cui siamo in attesa, non so se è chiaro, cui, cari esatto, ascoltatori, non ce l'abbiamo a questo modo. Esatto, però intanto, non è colpa dell'Agenzia, devo dire, per carità, perché 70 vero, giorni sono stati dati da quel famoso decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che doveva essere emanato, lo ripeto all'infinito, 45 giorni dopo e invece, il 1 gennaio del 2016, invece è uscito il 5 giugno e esattamente, quindi da qui 4 agosto. Allora, io intanto ringrazio Mauro Antonelli che come vedete è prezioso da questo punto di vista e chi come lui in queste settimane continuerà per mesi a darvi risposta. Cari ascoltatori, è l'ultima puntata del ciclo plenario della sospensione dell'estate della versione di Oscar. Non so se continuerà perché io non ho la notizia del mio nuovo contratto. In ogni caso, continuate con Radio 24 e appuntamento ancora per dalle 10 alle 12 domani mattina con me, col compare dei conti della Belva, per fare il punto di quello che succede stasera su MPS, gli stress test bancari, eccetera, eccetera. A domani mattina.